Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa giovedì 5 ottobre del 2017, 87.9 la modulazione di frequenza. Ci ascoltate in qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page trovate Ascolta la diretta e tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sia sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni e visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Domenico Di Noia, presidente della Federazione Italiana Cineclub d'Essé, sulla 17ª edizione degli incontri del cinema d'Essé a Mantova dal 9 al 12 di ottobre. Domenico, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, intanto raccontiamo cosa sono questi incontri. Gli incontri sono l'occasione per tutti gli operatori, tutti quelli che si occupano di cinema di qualità, quindi da chi ha le sale, dagli esercenti, ma anche da chi distribuisce i film, quindi distributori, giornalisti e poi anche tanti addetti ai lavori che si occupano appunto della programmazione di cinema di qualità. E sarà l'occasione di vedere tante anteprime, avremo 28 anteprime dei film che usciranno appunto a seguire incontri del cinema del sé, che segneranno un po' la stagione 2017-2018 per quanto riguarda, ecco, il cinema di qualità. Noi siamo il cinema che amiamo e il cinema di qualità, quindi il cinema che ha qualcosa da dire, che non sia solamente serie, sì, o puro intrattenimento. Senti Domenico, quante strutture fanno parte del FICE? Abbiamo circa 600 strutture in tutta Italia, credo che gli ascoltatori sapranno, sulla base dei film che vogliono vedere, più o meno in quali sale orientarsi per trovare dei film che gli interessano, ecco. Sicuramente la sala, noi siamo convinti che la sala gioca un ruolo importante anche per promuovere dei film particolari che naturalmente uno non trova da altre, in tutte le altre strutture. Chi va al cinema sa benissimo che spesso in tante sale trova sempre lo stesso film, o addirittura in certe strutture trova tre copie, quattro copie sempre dei soliti blockbuster, quindi è molto più difficile poi invece andare a cercare dei film che magari hanno avuto dei testi, che magari sono segnalati dalla critica, che però escono in poche copie ed escono soprattutto nelle sale che hanno una programmazione di cinema di qualità. Sì. Senti Domenico, ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti qual è lo stato dell'arte per i cinema d'Essé. Allora, chiaramente c'è molta attesa anche su dei decreti attuativi che dovrebbero ultimare quella che è la nuova legge sul cinema, perché è passato un anno dall'approvazione della legge, però siamo ancora in attesa di vedere i decreti attuativi, e che sono quelli che dovrebbero mettere delle novità e che dovrebbero dare anche la possibilità ai distributori e anche agli esercenti di ampliare l'offerta di cinema, quindi questo è il nostro obiettivo anche dal punto di vista della situazione. C'è da dire che in Italia ci sono dei periodi in cui escono tantissimi film e dei periodi in cui escono pochissimi film, come tutto il periodo che va da maggio fino a fine agosto, e questo crea molte difficoltà ai film più piccoli specialmente. Chiaramente in queste settimane escono 10-12 film a settimana, e chi ne fa le spese magari sono i film più indipendenti, quelli che hanno meno forza di essere sul mercato. Vi faccio l'esempio di Aciambra, che è il film che l'Italia ha candidato agli Oscar del prossimo anno, che è solamente in programmazione in una ventina di sale in tutta Italia. Sì. Senti Domenico, ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più su questi incontri? Beh, per gli incontri del cinema del sé si può andare sul sito della FICE, www.fice.it, quindi su quello si può trovare tutto il programma di Mantova, appunto, dove ci saranno tantissime anteprime e dove ci sarà anche una riflessione su come sta succedendo il cinema italiano. Benissimo, allora ringraziamo Domenico Di Noia, ricordiamo la 17ª edizione degli incontri del Cinema de Sé a Mantova dal 9 al 12 di ottobre. Un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, a risentirci. Ciao. Daniele Coluccini e Matteo Botrugno, registi del film Il Contagio, uscito in sala lo scorso giovedì 28 settembre, ben ritrovati. Ciao, eccoci. Ciao, ciao, grazie. A tutti, grazie. Ci eravamo sentiti con voi per Et in Terra Pax, questo nuovo film. Tra l'altro lo avevamo ospitato anche in forma teatrale su questi microfoni. Raccontateci un po' di questa storia. Sì, allora il Contagio è tratto da un romanzo di Walter Siddi uscito nel 2008. Dal 2009 per 3 anni dal romanzo era stato tratto uno spettacolo teatrale, come dicevi tu giustamente, e diretto da Nuccio Siano, che poi ha scritto la sceneggiatura del film con noi. E questa più o meno è la lunga genesi che ha avuto questo film. Ecco, proprio a questo proposito, a parte lui, Carmen Giardina, immagino qualcun altro nel cast, che rapporto è il film con quella che è stata la messa in scena? Beh, guarda, allora abbiamo fatto un lungo, diciamo è stato un lavoro di fusione tra quello che è il romanzo e quello che è stato il lavoro teatrale. Noi abbiamo preso proprio pari pari dei pezzi dallo spettacolo teatrale per creare, diciamo, la nostra storia. Quindi in realtà il film è un po' un ibrido tra lo spettacolo teatrale e il testo di Siti. Noi diciamo che abbiamo voluto mantenere del testo di Siti la struttura bipartita, quindi diciamo c'è questa scelta un po' forte che noi abbiamo fatto, che però ci sta portando grandi consensi, di sostanzialmente cambiare film a metà film, spostare l'attenzione, la nostra attenzione su uno dei personaggi che andiamo ad indagare, e poi abbiamo ripreso appunto delle scene, delle parti della sceneggiatura proprio dallo spettacolo teatrale, ovviamente filtrandole con la nostra sensibilità e con quello che col discorso che volevamo proseguire dopo Et in Terra Pax. Senti, la scelta degli ambienti, l'ambientazione periferia romana? Guarda, la prima parte del film, come del libro del resto, è una storia corale ambientata alla periferia di Roma. Noi siamo a Quarticciolo, ma potrebbe essere qualsiasi periferia e qualsiasi quartiere di Roma periferico, ma se vogliamo estenderlo un po' di più, qualsiasi, insomma, quartiere periferico di una grande città. Sì. E la differenza però con la grande città è che poi uno di questi personaggi fa il grande salto nel mondo della criminalità, però nel mondo del potere criminale, e questo personaggio è Mauro, interpretato da Maurizio Tesei, fa il salto e diciamo nel film diventa nella seconda parte il racconto della vita un po' al centro di Roma di questo personaggio, del suo diciamo della sua discesa agli inferi, perché abbandonando la periferia lui entra in un mondo che non è suo, e quindi lo vediamo muoversi in questa famosa terra di mezzo che è associabile, insomma, poi alle indagini su Mafia Capitale, alle intercettazioni ambientali che sono state fatte, e questo termine che è usato proprio da Carminati per descrivere il mondo in cui si muovono questi personaggi che partono dalla periferia, dal basso, per arrivare fino al centro del potere e politico anche capitolino. Certo, un'attualizzazione, come dicevate giustamente voi, su Mafia Capitale e soprattutto sulla gestione dei migranti. Come vi siete mossi in quest'ambito di attualizzazione? Beh, guarda, allora nel 2008 Walter Siddi parlava di fatti precedenti, quindi si parlava di palazzinari e sì. In quel periodo, diciamo, era il periodo dei palazzinari. Lo è stato, però diciamo che nella cronaca si ritrovavano spesso temi di appunto legati alla costruzione, ecco. Sì. Poi noi, mentre scrivevamo la sceneggiatura nel 2004-2005, quando iniziavamo nel 2015, scusami, quasi nel 2014-2015, abbiamo iniziato a sentire sentivamo dai giornali che si parlava continuamente appunto di questi scandali, mese e che iniziavano ad esserci queste intercettazioni, si cominciava appunto, è cominciata poi tutta l'inchiesta di Mafia Capitale, e quindi ce l'hanno servita un po' sul piatto d'argento, nel senso che volevamo un po' riattualizzare i fatti di cronaca che venivano raccontati nel Contagio, e ci siamo appoggiati a ai fatti appunto di Mafia Capitale. C'è da dire che però il Contagio non è un film su Mafia Capitale. A noi piace inserire i nostri personaggi in un contesto storico, politico e sociale ben riconoscibile, e diciamo che prende spunto dalla cronaca e dall'attualità, ma in realtà noi ci concentriamo molto sui personaggi, quindi su come i nostri personaggi vivono in queste, immersi in queste situazioni. Infatti, come avrei notato, il problema, diciamo, quello che porta avanti la seconda parte del film è la gestione e diciamo l'apertura di un centro per richiedenti asilo, centro di permanenza temporanea per richiedenti asilo, che ovviamente è un modo per rubare i soldi. Questo non è un film ovviamente di attualità, e non è un film, scusami, di inchiesta, non è un documentario, però noi abbiamo voluto inserire un messaggio politico per dire: noi ti parliamo di questi personaggi, ma queste cose, questo fare business sui migranti è una cosa che succede davvero, anche se noi ovviamente non facciamo un'inchiesta, ma lo parliamo dal punto di vista, ne parliamo dal punto di vista emotivo del personaggio. A proposito, tornando alla pagina scritta, quali sono gli elementi di Walter City che più vi hanno convinto e determinato a farne un film? Innanzitutto l'intuizione di Walter City, che era quella di intravedere questa famosa terra di mezzo, questa linea di demarcazione che non così netta tra classi sociali, e quel punto in cui le classi si mescolano e non hanno, d'altronde sua la frase, non è la borgata che si sta imborghetendo, ma è la borghesia che si sta imborgatando, e la dice lunga su questa è una delle chiavi di interpretazione del film. Ma dal punto di vista poi della struttura, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che in realtà abbiamo quello che ci è piaciuto molto del libro di Sidi, e che abbiamo voluto un po' riportare nel nostro film, è questo modo di questo raccontare la città di Roma in modo un po' impressionista, nel senso che noi abbiamo, nella prima parte raccontiamo delle storie molto raccontiamo una storia corale, e così come nel libro il professore, narratore e autore del libro, Walter, viene traghettato da Marcello, suo l'uomo che ama, nella periferia, e coglie, diciamo, strati di vita sussurrati, strillati dalle finestre, e li cogli così quasi in maniera molto frammentaria. Noi abbiamo voluto un po' riportare questo affresco un po' in punto impressionista, creando delle storie che non necessariamente portano avanti la narrazione, ma che semplicemente ti danno un colore e un sapore di quella che è poi la Roma che respiriamo noi oggi. Sì. In chiusura, un bilancio di questa prima settimana di programmazione? Ma guarda, allora, il bilancio della prima settimana di programmazione per i film italiani è stata abbastanza disastrosa, però diciamo che noi ci siamo ripresi abbastanza bene, perché dopo il film di quello con Beppe Fiorello siamo, diciamo, al primo posto fra i film italiani, anche se siamo un po' sotto in fondo la classifica dei film, diciamo, totali. C'è da dire, che questo è detto solamente così, che a noi non interessa, in realtà, a noi interessa che la gente vada al cinema e vada a vedere i film, italiani o non italiani, ma mettiamoci un po' di campanilismo, anche quelli italiani, e che ovviamente il nostro lavoro e quello degli altri nostri colleghi, insomma, facciamo in modo che venga, che ci siano delle storie interessanti e che soprattutto la gente possa coglierle, poi al di là che sia il nostro il film di qualcun altro. In realtà ci auguriamo che le persone vadano in sala un po' di più, perché comunque a Roma il film sta andando molto bene, però vedere comunque che il cinema italiano ha questa un po' questa difficoltà, non credo sia solo colpa appunto degli autori, ma forse le persone dovrebbero imparare ad andare proprio al cinema e a premiare anche un po' il nostro cinema. Insomma, diversi film stanno uscendo ultimamente, anche con noi sono usciti Riso di Costanzo, film come il nostro senza peli sulla lingua, quindi diciamo che stiamo procedendo noi magari un po' di più, però insomma, serve un po' più di supporto, quello sicuramente. Noi ci auguriamo che le persone vadano a vedere il nostro e quello dei nostri colleghi, insomma, per supportare un po' questo cinema italiano un po' in difficoltà. Bene, allora io vi ringrazio, un saluto a Matteo Botrugno e Daniele Coluccini per il film Il Contagio, in sala in questi giorni, uscito il 28 settembre scorso, a risentirci presto. Grazie, speriamo, speriamo prima di 7 anni, dai. Ciao, un abbraccio. Ciao. Eccoci con Antonio Manetti, co-regista del film Amore e Malavita, in uscita in sala oggi, giovedì 5 ottobre. Antonio, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, grazie ancora dell'invito. Senti, sei da solo oggi, adesso? In questo momento stavo con Marco e mi sono allontanato per essere fare con voi, quindi okay. L'ho mollato. L'hai mollato. No, non siamo mai da soli in questo periodo, siamo sempre insieme perché appunto stiamo seguendo il film, insomma, la parte promozionale che è importante. Bene. Allora, per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Guarda, è un ovviamente la prima parola che si deve dire, perché non si può non dire, che è un musical, che è ovviamente un genere particolare che in Italia si fa poco, e poi è una storia prima di tutto, ovviamente, ed è la storia di un, diciamo, siamo posti un dubbio, una domanda, siamo fatti una domanda che è una domanda che poi porta avanti la storia, che è un killer della criminalità organizzata viene ordinato di uccidere una ragazza perché è testimone di qualcosa che non doveva vedere. Lui, bravissimo killer, si trova davanti alla ragazza che deve uccidere e i due si riconoscono. Lei era il suo amore dell'adolescenza, che poi lui ha dovuto lasciare proprio per fare la vita criminale. E quindi c'è questo dilemma: il killer che farà? Vincerà l'amore o la malavita? Cioè, la ucciderà o abbandonerà la malavita a costo però della sua vita, quindi mettendosi a rischio, salvandola, amandola, cercando di amarla. E questo, diciamo, più o meno il film, tutto questo raccontato con grande ironia. Non è un film cupo, diciamo, è un film leggero, ironico e con tanta musica. Come è venuto fuori il progetto? Guarda, ogni progetto ha varie, diciamo, modi in cui nasce, quindi non c'è una formula, e quindi, se non essendoci una formula, è difficile poi ricordarsi esattamente qual è stata la prima scintilla, però sono tante. In realtà noi avevamo, diciamo, le prime radici di questo film forse sono cresciute quando per girare Song e Napoli siamo andati a Napoli. E abbiamo conosciuto meglio la città di Napoli, noi siamo romani, ma è il secondo film a Napoli, e abbiamo visto molti lati che Song a Napoli non c'erano, che volevamo raccontare, soprattutto molta musica diversa, che Song a Napoli parlava di un cantante, diciamo, neomelodico, quindi un cantante, diciamo, un po' trash. Invece abbiamo sentito tanta musica di qualità a Napoli, veramente bella, e volevamo fare, abbiamo pensato sarebbe bello fare un film tutto così. Poi da lì è nata la storia, è nata la voglia, insomma, di fare un film d'azione con la musica. Cioè, il nostro musical è un musical fatto che ci si spara mentre si canta. Senti, com'è stato appunto il lavoro di commistione tra musica e drammaturgia? Il punto di vista musicale com'è stato curato? È stato curato con molta molta attenzione e molto lavoro. E non essendo dei registi che non ho mai lavorato sul musical, ho fatto ovviamente, come penso sai, tanti video, sì, musicali, no? Quindi chiaramente lavorare tra immagini e musica non era per noi una novità, e in questo ci ha avvantaggiato questa cosa. Però poi c'è chiaramente il fatto che qui era diverso, c'era un equilibrio narrativo da tenere, cioè quei musical a noi dove si canta troppo non, sì, ci piacciono, sì, molto, sì. O dove addirittura spesso si canta tipo un po' l'opera, no? Dove si canta per come dialogo, per dirsi le cose, come stai? Ne ora esagero, insomma, no? Questi musical un po'. Allora noi volevamo che le canzoni fossero canzoni, che rimanessero, sì, canzoni a sé, ma che fossero dentro il tessuto narrativo del film. Questo è un lavoro molto delicato, molto difficile. Abbiamo collaborato sia con Nelson, che è l'autore dei testi di tutte le canzoni da prima, mentre scrivevamo la sceneggiatura, e che con Pivio e Aldo Descalzi, musicisti già da Romito Davide Marello con noi a Song Napoli, abbiamo ripetuto questa cosa, ma con noi con loro lavoriamo sempre e abbiamo lavorato pure sulle musiche prima del set, perché di solito si lavora dopo, no? Del film, dopo il montaggio, invece prima per forza, che noi dovevamo registrare le canzoni prima. Allora il lavoro è stato lungo, delicato e l'abbiamo siamo stati molto attenti. C'è un musical che è un musical famosissimo che noi abbiamo tenuto presente, non perché c'entri niente con il nostro film, sono film molto diversi, ma lo riteniamo dal punto di vista dell'equilibrio parole e canzoni perfetto, che è Grease. Noi riteniamo che Grease sia uno dei musical dove l'equilibrio tra parti recitate e parti cantate sia ottimo, e quindi abbiamo in qualche modo studiato ma proprio i pesi di Grease. Poi è totalmente diverso il film, non c'entra niente, anche se Grease è un bellissimo film. Senti, mi incuriosiva questo vostro rapporto con Napoli a partire dal film precedente, e allora ti chiedo, per come l'avete vissuta, com'è la situazione musicale canora a Napoli in questo periodo? Guarda, secondo me e secondo noi, insomma, Marco, è proprio stupefacente, è veramente in un grande momento. Sì. C'è un fermento culturale, non solo musicale, perché la musica alla fine a Napoli sappiamo tutti che c'è sempre stata, no? In qualche modo, ma c'è un grande fermento proprio culturale, soprattutto giovane, diciamo che sulle anche nuove tecnologie, anche se pensiamo a filmmaker, pensiamo a cartoonist, a effetti speciali, e anche musica. Impressionante, veramente. Se la città, non lo so, noi forse l'amiamo troppo, esageriamo, però secondo me sta avanti culturalmente a tutte le altre città italiane. Ma proprio avanti, è un mondo a sé, perché Napoli è un mondo a sé, perché è strana, perché è una metropoli, è una nazione quasi all'interno dei suoi confini, e che si fanno tutto da soli, però veramente stanno avanti. Io sento delle cose considerate solo per napoletani, quindi che non esco tanto fuori, ci sono delle cose bellissime. Per esempio, noi abbiamo usato Franco Rittardi, che noi abbiamo usato anche in Song Napoli, qui fa anche l'attore nel nostro film, che è cantante, una voce soul veramente come pochi. Purtroppo è relegato in un mondo che non riconosce la musica napoletana, perché la ritiene un po', no, questa musica nuova, un po' melodica, un po' cosa, ma Franco Ricciardi è veramente una grande voce, un cantante soul con l'anima, e noi abbiamo preso di Napoli questo. Devo ripetere, tornando al film, ci abbiamo preso di Napoli la parte soul, cioè per noi la musica napoletana, qui c'è anche un po' di sceneggiata, perché se non musica abbiamo ripreso anche un po' la sceneggiata, però in realtà la parte musicale che teniamo di più è la parte soul, blues, che è Napoli diventata nota, Napoli centrale, Pino Daniele, eccetera eccetera, tutto quel fermento musicale là di quegli anni, fine 70. In questo momento mi sembra che non sia lo stesso, è un po' diverso, ma c'è sempre quell'anima soul che vince, che a noi piace tantissimo. Allora, da oggi nelle sale, in quante sale, Antonio? Tante. per la prima volta sfidiamo i veri mostri del cinema, dell'industria del cinema, perché artisticamente non ci sentiamo sotto a nessuno. No, scherzo, insomma, però una cosa è fare i film, una cosa è poi distribuirli. Nel momento della distribuzione i nostri film sono sempre stati di nicchia. E noi siamo sempre stati fieri della nostra nicchia, e le cose più belle spesso nella vita sono di nicchia, no? Nell'arte soprattutto. Però invece è arrivato il momento, noi coerenti abbiamo sempre fatto i nostri film senza mai scendere a compromessi, e in questo momento l'industria cinematografica sta credendo in noi, senza che noi appunto avessimo fatto compromessi, quindi il film è totalmente nostro, anzi il nostro film più personale, ma verrà distribuito in modo largo in tutta Italia con 280 sale. Sono veramente tante, grandi numeri. Siamo molto spaventati. Però abbiamo superato l'esame a Venezia, siamo andati a Venezia e è piaciuto tantissimo, e anche quello ci spaventava, perché chiaramente non era il nostro terreno di gioco. Sì. Va bene, allora Antonio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie. A risentirci presto. Ok. Crepi, grazie. Insomma, non volevo considerare io perché sono il regista e quindi dice facile, però è un film che sorprende, quindi io andrei a vederlo. Bene, bene. Alla prossima, Antonio. Tante. Ciao. Ciao, grazie. Antonio Manetti, co-regista insieme al fratello Marco del film Amore e Malavita, in uscita in sala oggi giovedì 5 ottobre. Ieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione del film 120 battiti al minuto di Robin Campiglio, in uscita in sala oggi giovedì 5 ottobre. Ieri intanto ben ritrovato. Ben trovati a voi. Allora, per chi ci ascolta, diciamo subito che storia è questa. La storia, dunque, c'era un'associazione francese mutuata poi da un esempio americano che si chiamava ACT UP, cioè Agisci, che si è focalizzata sull'AIDS all'inizio degli anni 90. Bisogna sapere che in Francia la malattia era più grave che in altri paesi d'Europa, era diventata una specie di cosa epidemica e la politica, il governo non prendeva alcun provvedimento, era totalmente inattiva, e le case farmaceutiche tenevano più o meno nascosti i risultati delle loro ricerche, eccetera eccetera. Allora questo gruppo di persone, molte delle quali avevano contratto l'HIV, che era il primo passo per l'AIDS, come sapete, si sono inventati delle azioni dimostrative, delle azioni molto spettacolari anche, per risvegliare l'attenzione su questo problema, che era veramente un problema enorme, risvegliare l'opinione pubblica, la politica e anche quello che oggi chiamiamo Big Pharma, insomma le case farmaceutiche. Pensando a un pubblico giovane, immagino che l'impressione che si possa ricevere dall'impeto di questa di questa organizzazione nel fare le proprie azioni, perché magari oggi l'AIDS è curabile, ma allora, e soprattutto come dicevi tu, in Francia ha falcidiato una generazione, tra tossicodipendenti e omosessuali è stata una strage. Beh, in Francia poi si aggiunse anche il sangue infetto messo in circolazione addirittura dal Ministero della Sanità, cioè sì. Non lo sapevano, ma cioè ci fu uno scandalo spaventoso. Però per quanto riguarda i giovani, il film è molto importante perché certo. Oggi sembra che l'AIDS sia debellato, non è affatto così, e anzi c'è una recrudescenza, perché siccome si continua a non fare informazione, allora si hanno rapporti non protetti, eccetera eccetera, le cose che insomma noi forse le sappiamo, però i ragazzi non sono stati proprio informati di queste cose. Il film naturalmente non è didascalico, il film non parla certo. Di questo, il film parla anche d'amore, parla di quello che di quello che è stata la forza propulsiva, c'era uno stato di necessità di inventare qualche cosa che appunto risvegliasse le coscienze su questo problema enorme. Ma è un esempio oggi sul fatto che, senza ricorrere alla parola militanza, che a molti fa sto però il film ci dice, fra l'altro, che si può sempre fare qualche cosa per cambiare lo stato delle cose, appunto lo stato del sistema in vigore quando non funziona, che nella maggior parte dei casi. E poi il film parla anche, c'è una storia d'amore privata, parla di esseri umani, parla di persone giovani che però appunto hanno trovato un punto focale di vita per necessità o per volontà, perché uno dei due protagonisti per esempio è seronegativo, però si dedica anima e corpo alla causa di Attap. Sì. Cioè, il film, voglio dire, forse non sarà un film facilissimo, però per fortuna viene accolto in Francia, è stato già e tuttora su, è uscito alla fine d'agosto ed è tuttora un grandissimo successo. Ha avuto, come sai, il Gran Premio della Giuria a Cannes, sì. È il candidato francese all'Oscar, quindi insomma è accompagnato, diciamo, e mi sembra che anche in Italia stia risvegliando, a me a criticare dal web, stia risvegliando un grande interesse. Sì, le critiche, sì, che sono uscite oggi sono eccellenti, vediamo un po' che succede, però insomma la cosa è che veramente è un film diverso da tutto quello che abbiamo visto finora. Sì. Senti, ecco, a questo proposito, Vieri, volevo chiederti quali sono gli elementi che più ti hanno impressionato di 120 battiti al minuto, positivamente, chiaramente. Ma un po' tutto, è difficile distinguere, perché è un film molto ricco e molto, però anche molto fluido, diciamo, non è che sì. Sono delle parti, però quello che mi colpisce è, per esempio, ci sono delle riunioni del gruppo, che sono come delle piccole assemblee, che detto così le discussioni su che cosa fare, come farlo, eccetera, detto così dice oddio, ma se si pensa che Rubén Cantillon è stato lo sceneggiatore di Canté per quello che da noi si chiamò La Classe, sì, sì, che fu un grande successo e che era appunto un film proprio che era fatto di questo, di discussioni, sì, tra sì. Scolari, professori, eccetera, ti ricordi? Sì, sì, pensa che a me ha ricordato invece le riunioni di Terra e Libertà di Ken Loach, le riunioni dei militari. In qualche modo, sì. Anche, ma certo, ecco, sono sicuro che bello. Questo qui è un film che deve piacere moltissimo a Ken Loach, perché siamo, diciamo, nella sua linea. No, è sì, un film sì. Così, che è un film impegnato, ma che parla. Parla al cervello ma va dritto al cuore, insomma, come dire, sì. Ecco, questo è il suo grandissimo peggio. E poi parla naturalmente anche di morte, ma ha una vitalità straordinaria, e c'è dentro appunto questa espressione di vitalità, questa voglia di vivere, questa 120 battiti al minuto, poi naturalmente è un ritmo acceleratissimo, ma insomma si spiegava il regista che non pensava soltanto a quei momenti fortissimi della vita, non so, quando uno si innamora, per esempio, si accelerano i battiti, eccetera, ma anche alla house music di quegli anni. Un altro elemento sicuramente, Vieri, è l'equilibrio e il talento del cast. Ma sono straordinari, sì, io devo dire che, ma tutti, perché cioè, protagonisti, sono due i protagonisti, io li trovo una meraviglia, e poi sono tanti, c'è anche Adèle Haenel, che è la ragazza sì. che ha fatto l'ultimo film dei Dardenne, era il medico condotto che non vuole rinunciare alla sua missione per, diciamo, posti migliori, non so se sì, sì, sì. la ricordate, se è poi un film dei Dardenne trascurato, ma secondo me è bellissimo. No, sì, cioè, sai che cosa è che Cantillon ha fatto veramente parte di ACT UP in quegli anni. E questo fa la differenza, certo. E questo fa la differenza, nel senso che cioè, anche se non lo sai, senti che è roba di prima mano, sì, è raccontata sì, sì. proprio con una verità, con una passione, proprio di prima mano. Sì, sì, sì. Vieri, in quante sale? Le coppie sono 35-38 mm-hmm. circa. Bene, e bene. Poi vediamo che succede, se va bene aumentano. Bene. Allora io ti ringrazio, un abbraccio, grazie e a presto. Grazie a voi, un abbraccio a voi. Ciao. A presto, arrivederci. Vieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione del film 120 battiti al minuto di Robin Campillo, in uscita in sala oggi giovedì 5 ottobre. Filippo Vendemmiati, direttore della seconda edizione di Cinevasioni, Festival del Cinema in Carcere, nel carcere della Dozza, Bologna, dal 9 al 14 ottobre. Filippo, ben ritrovato. Eccoci qua per la seconda volta, grazie a voi ancora una volta. E ancora una volta a parlare di carcere, di cinema e carcere, raccontaci un po' di questa storia. La storia cominciò con un corso laboratorio e poi ci chiedemmo: ma perché? Parliamo di cinema e non possono vedere neanche un film. E allora, grazie alla disponibilità della direttrice del carcere, ci siamo inventati un vero e proprio festival del cinema all'interno della Dozza di Bologna. E questa è la seconda edizione. 10 film in concorso, 8 di fiction e 2 documentari, più 2 eventi speciali. Si comincia il 9 ottobre e si finisce il 14 ottobre con un evento speciale e poi la premiazione. La scelta dei titoli? Abbiamo, non posso dire questo con orgoglio, quest'anno tantissimi autori, anche importanti, ci hanno mandato le loro opere in selezione, quindi si sono sottoposti a giudizio selettivo. E per noi è una grande soddisfazione. Posso citare alcuni titoli: La ragazza del mondo, Tutto quello che vuoi, il documentario più libero di prima, Sicilian Ghost Story, Cronaca di una passione, La pelle dell'orso, The Habit of Beauty, il documentario Varichina, Chi salverà le rose, con Lando Buzzanca e Carlo Delle Piane. Ecco, mi fa piacere dire che un premio in qualche modo dalla direzione è già stato assegnato, perché mercoledì, al termine della proiezione del film, abbiamo deciso di assegnare un premio alla carriera a Carlo Delle Piane, che verrà a ritirare la nostra Farfalla di ferro che è stata realizzata nelle officine metalmeccaniche del carcere di Bologna. Questi 10 titoli, Filippo, che periodo coprono? Da quale anno ad oggi? Sono tutti film usciti dal 2016 in poi. Ok, quindi recentissimi. Perché appunto l'idea è quello di, come dire, di considerare questa come una sala come le altre, anche se in un luogo chiuso, che cerchiamo di aprire in qualche modo con il cinema, e allo stesso tempo anche aprire il cinema a queste esperienze, quindi portare all'interno del carcere non solo i film ma tutto il sistema che ruota attorno al cinema, da chi ci lavora ai distributori, ai produttori, ai critici cinematografici che quest'anno presenteranno tutte le opere in concorso, gli stessi registi presenti, praticamente tutti, che alla fine si sottoporranno alle domande della giuria composta da una quindicina di detenuti e presieduta dalla regista teatrale che ha lavorato molto spesso, molte volte nelle carceri, che è Paolo Billi. Senti, quante saranno le persone detenute coinvolte? Allora, quest'anno c'è una grossa novità a cui teniamo molto. Praticamente il pubblico esterno può entrare, ormai le iscrizioni sono quasi chiuse perché abbiamo ricevuto tante prenotazioni, però quest'anno ci sarà come elemento principale, costitutivo, la nostra platea sarà formata dalle scuole, la scuola, il cinema che fa scuola in qualche modo, perché si uniranno gli studenti tra virgolette esterni delle scuole superiori di Bologna insieme ai 250 studenti che frequentano i vari corsi scolastici all'interno del carcere della Dozza, dai corsi elementari di alfabetizzazione fino all'università. Ci sarà una grande classe che a rotazione assisterà a tutte le proiezioni, una classe senza, a quel punto, senza distinzione, e non ci sono posti prenotati, non c'è divisione in sala, ma si uniranno, perché l'esperienza del primo anno ci ha dato questa idea, insomma, di coinvolgere il mondo della formazione, scuola interna e esterna. Perché all'interno di questa platea abbiamo visto nella prima edizione degli scambi anche di informazioni, di pareri, di commenti molto toccanti, che abbiamo voluto in qualche modo formalizzare quest'anno, raggiungendo quindi un accordo con la direzione scolastica di Bologna, che coinvolge certo sia le scuole, e non c'è differenza a questo punto tra le due scuole e tra gli studenti. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione? Certo, c'è un sito, c'è una pagina Facebook Cinevasioni che durante il festival trasmetterà quasi in tempo reale, anche in diretta, tutto quello che avviene. facebook.com/cinevasioni e sito internet www.cinevasioni.it e ci sarà una redazione al lavoro formata dagli studenti universitari del DAMS e presieduta da un giornalista RAI che è Franz Giordano, e quindi in tempo reale lavorerà e informerà su quanto accade in questo strano e inedito festival un po' fuori dal comune. Filippo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Filippo Vendemmiati, direttore della seconda edizione di Cinevasioni, Festival del Cinema in Carcere. Carcere della Dozza, Bologna, dal 9 al 14 di ottobre. Claudio Casale, coregista del documentario Piccolo Mondo Cane, che sarà al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro, qui a Roma, quartiere del Trullo, il prossimo 6 ottobre, quindi domani, venerdì. Claudio, ben ritrovato. Ciao Federico, grazie. Allora, per chi è all'ascolto e non avesse perso quella puntata, cos'è questa storia? Allora, Piccolo Mondo Cane è un documentario che racconta l'autogestione degli ex lavoratori del canile comunale di Muratella. Parliamo del canile più grande di Roma, con 800 cani. Quello che è accaduto è che i lavoratori che lavoravano lì da 15 anni lavoravano, nonostante fosse un canile comunale, sotto una onlus, con un contratto insomma tipico di esternalizzazione. Quello che è accaduto è che nel momento in cui è stato revocato poi l'assegnazione all'associazione, i lavoratori si sono trovati tutti licenziati. Non accettando, diciamo, questo destino, hanno pensato bene di iniziare un'autogestione, di conseguenza hanno continuato loro, senza contratto, senza ovviamente stipendio, a lavorare nel canile, gestendo in pratica quello che è più o meno, no, il randagismo su Roma. E il documentario si focalizza nel particolare sul mese di dicembre e gennaio, dicembre 2016, gennaio 2017, che è stato poi un periodo topico per loro, anche riguardo le negoziazioni che hanno avuto con l'amministrazione del sindaco Raggi. Sì. Senti, tanto per puntualizzare, di quante persone e di quanti animali stiamo parlando? Parliamo di 800 cani, 70 gatti e di 70 lavoratori. Che sì, poi appunto si sono loro stessi definiti giustamente ex lavoratori e che sono oggi riuniti sotto un'associazione che io me ne occupo. Sì, sì, sì, sì. Senti, per questo lavoro raccontaci un po' com'è andata e poi le novità rispetto a questa nuova versione che sarà proiettata domani. Sì, certo, questo è un documentario innanzitutto veramente, veramente indipendente, perché è un documentario che noi ci siamo trovati a filmare senza realmente renderci conto di quale sarebbe stato il minutaggio finale, che poi adesso è oltre i 60 minuti, e da lì noi non abbiamo una distribuzione, perciò c'è proprio un'auto-organizzazione interna per portare il film e proiettarlo. Lo abbiamo proiettato in una prima versione tra marzo e maggio di quest'anno, e quello che è successo, come tu giustamente dicevi, è che poi con l'estate, subito dopo l'estate, siamo ritornati in montaggio, perché diciamo la storia con mesi diciamo di tregua da tutti gli avvenimenti poi più caldi ci offriva a noi una prospettiva migliore. Quello che abbiamo fatto è stato includere diverse nuove scene, tra cui una particolare che è di un dirigente tecnico del comune di alto livello, che con le sue dichiarazioni diciamo ci svela un attimo quali sono stati i meccanismi decisionali all'interno dell'amministrazione, perché poi c'è un po' il mantra che non c'erano altre scelte, non si poteva che far così, e mentre quello che lui va a svelare è il sottotesto di quello che dice, che in realtà ci sono state discussioni, c'erano altre opzioni e non per forza c'era la sinergia che si vuole raccontare tra la parte politica e la parte invece tecnica all'interno del Comune di Roma. E questa è, diciamo, una scena, parte di questo nuovo montaggio che noi proietteremo domani per la prima volta al Faro, come dicevi giustamente. Tra l'altro è stato fatto anche un nuovo mixaggio audio da Box 20, un recording studio qua a Roma, che ringrazio perché insomma hanno creduto nel progetto, che come diceva me è totalmente indipendente, perciò quello che ci spinge ad andare avanti è i contributi delle persone che decidono di collaborare e di credere al documentario. Per quanto riguarda il canile, com'è la situazione ora? La situazione non è buona, più del canile mi concentro sugli ex lavoratori, certo, che sono poi appunto la realtà che io ho osservato, e anche quello ci ha spinto a il montaggio e a riproporlo. La situazione è che durante l'autogestione quello che si sentivano dire sempre era, cioè, non siete un interlocutore valido, siete dei lavoratori sparsi, non avete un sindacato, non siete un'associazione, come possiamo noi istituzioni relazionarci con voi? Quello che loro hanno fatto dopo, durante quest'anno, è stato appunto riunirsi dentro un'associazione, proprio come gli veniva chiesto. E quello che è accaduto è, negli ultimi mesi, un vero e proprio accanimento c'è stato, successivo all'esperienza dell'autogestione, in cui loro, nella pratica, non entrerò nei dettagli perché quelli appunto li lascio agli ex lavoratori, ma parliamo di una situazione in cui una candidatura, per esempio, per lavorare come volontario, un'associazione di volontariato dentro il canile, di conseguenza parliamo proprio di volontariato, ci siamo ritrovati in una situazione in cui i regolamenti scritti ad hoc portano all'esclusione proprio di un'associazione, indoviniamo quale. Di conseguenza un vero accanimento, sì, che per me, diciamo, opinione personale mia da osservatore, più che un accanimento politico, io ci vedo un accanimento sociale, perché qui non parliamo di una diversa parte politica, parliamo di ex lavoratori, hanno lavorato lì 15 anni, hanno dimostrato il loro affetto verso quel posto gestendolo da soli per 8 mesi, cosa che insomma sfido altre realtà a fare, e allo stesso tempo oggi ci si trova quasi con una condanna, quasi con una persecuzione su quell'esperienza che si vuole ovviamente, no, come possiamo immaginare, cancellare dalla memoria, come se non fosse mai accaduta. E di questo è una cosa di cui si parlerà domani, perché noi domani abbiamo pianificato la giornata, la serata, per essere non unicamente una proiezione. Si inizierà infatti già dalle 8 con una cena, poi appunto organizzata dagli ex lavoratori. Si seguirà alle 9:30 con la presentazione del nuovo montaggio di Piccolo Mondocane, e alle 22:30 ci sarà un dibattito in cui interverranno l'associazione Io Me Ne Occupo, proprio per raccontare le vicende accadute negli ultimi mesi, di conseguenza successivamente alla realizzazione del documentario, e anche Mag Roma, che ha reso possibile l'autogestione in sé organizzando quello che è stato il crowdfunding, le donazioni da parte dei cittadini, perché ovviamente l'autogestione aveva dei suoi costi fissi al mese, il cibo degli animali, le strutture, che sono state per 6 mesi coperte da appunto grazie a una campagna di crowdfunding realizzata appunto con Mag Roma. Di conseguenza una serata più a largo raggio, ad ampio respiro, in cui il film rappresenta un tassello, ma non, diciamo, l'unica esperienza per le persone che verranno. Bene, allora ci lasci anche tutti i riferimenti web? Assolutamente sì, abbiamo la pagina Facebook del film, che è Piccolo Mondocane, e tra l'altro stiamo cercando di organizzare sempre dal basso veramente altre proiezioni anche fuori Roma, perciò chiunque fosse interessato ad avere il film, a proiettarlo in spazi, cinema, teatri, qualunque cosa, insomma, noi siamo apertissimi e ci potete contattare sulla pagina Facebook Piccolo Mondocane, mentre per gli aggiornamenti diretti degli ex lavoratori c'è la pagina Io Me Ne Occupo. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento per domani, venerdì 6 ottobre, a partire dalle ore 20, Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro, via del Trullo 330 qui a Roma. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie mille. Ciao Federico. Claudio Casale, co-regista del documentario Piccolo Mondocane. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Enrico Nosei, per parlare del documentario Machines di Rahul Jain, non so se la pronuncia sia giusta, comunque al cinema Spazio Oberdan a Milano dal 12 al 25 di ottobre, questa è la programmazione. Enrico, ben ritrovato. Salve, grazie, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, che storia è, che racconto è questo di Machines? Ma è un film molto bello, molto particolare, racconta appunto le condizioni di lavoro, il lavoro e la storia di una fabbrica tessile indiana, che è una di quelle fabbriche che fanno capo all'industria che viene definita fast fashion, cioè quelle industrie occidentali che si approfittano, diciamo, della possibilità di produrre a bassissimi costi, in pessime condizioni di lavoro, senza rispetto naturalmente per le norme di sicurezza, per lo sfruttamento e oltretutto pagando pochissimo questa manodopera. Noi abbiamo sempre in testa quella storia, insomma, di quelli che facevano legare i palloni da calcio ai bambini. Sì. Ecco, è uno sfruttamento del lavoro di questo genere. Però detta così, insomma, è un po' poco, nel senso che questo è il soggetto del film, il tema del film. In realtà poi questo è un lavoro che ha anche delle grandi ambizioni riuscite, voglio dire, cioè ha un grande valore anche da un punto di vista cinematografico, perché c'è una grande sapienza da parte del regista di mettere in scena, di usare il montaggio, di usare le inquadrature, di costruire cioè un racconto vero e proprio. Sì, è un documentario senza dubbio, però è uno di quei film un po' a metà strada fra il documentario e la finzione, proprio per tutto il lavoro di messa in scena che c'è da parte di chi ha realizzato il film, perché è un film anche molto visionario, un film molto bello, visivamente molto potente, per cui oltre all'importanza, diciamo, di tornare a riflettere su un argomento del genere drammaticamente attuale, c'è però anche tutto un discorso poi di scrittura filmica di alto livello. Volevo anche ricordare, sì, che la prima proiezione del film la facciamo in collaborazione con Inail. Lo dico perché con Inail abbiamo da 2 anni un progetto che fa capo a un sito che abbiamo creato noi, che è lo spettacolo della sicurezza, che è un sito che raccoglie, è un sito che è sempre in progress, che raccoglie già oltre 250 titoli di film e documentari che trattano i temi del mondo del lavoro, in particolare della sicurezza, delle condizioni dei lavoratori, che è utilizzabile dalle scuole, che possono scegliersi il film e venirlo a vedere qua da noi al Museo del Cinema gratis, con un'introduzione, una chiacchiera finale. Questo film ci sembrava ogni tanto facciamo qualche appuntamento a Spazio Oberdan anche con dei film nuovi che trattano l'argomento, e questo non ce lo siamo lasciati sfuggire, per cui in accordo con la Wanted, che distribuisce il film, la prima serata sarà una serata a ingresso libero il 12 di ottobre, e ci sarà anche questo tipo di incontro, confronto con degli operatori del settore. Secondo me è un film da non perdere. Certo, non è un film di azione, non è un film di finzione, ma è un film che davvero riesce a tenere sulla sedia, riesce a tenere viva l'attenzione del pubblico, e non è neanche così oscuro, così tetro, così cupo nel presentare le condizioni di lavoro e questi lavoratori indiani, i quali sembrano quasi a volte non essere perfettamente consapevoli di essere sfruttati, non hanno forse un termine di confronto. Sì, sì, sì. Ecco, per questo proposito, Enrico, volevo chiederti intanto, per dare una dimensione del fenomeno, di quanti lavoratori e lavoratrici stiamo parlando indicativamente, e poi nel documentario che condizioni di lavoro vengono mostrate? Ma senti, il numero dei lavoratori coinvolti, questa è una grossa fabbrica, sì, indiana, quindi sì, parliamo di centinaia di persone occupate, okay, che fanno turni di 12 ore, sì, senza nessuna interruzione, e credo che si stiamo parlando di una paga che si aggira sui 3-4 euro tradotti nella nostra moneta al giorno. Sì, quindi sì. Facciamo due conti e ci rendiamo conto che questi lavoratori di questo stato che si chiama Gujarat in India sono assolutamente trattati come animali, insomma sfruttati come bestie. Ma dicevo, non c'è neanche da parte loro molto la consapevolezza di questo, perché dicevo, non hanno un termine di confronto, non sanno quali sono le garanzie che per esempio nel mondo occidentale ai lavoratori vengono riconosciute. Quindi sono, non dico contenti di lavorare, ma insomma per loro è comunque una fonte di sostegno, una fonte di reddito, diciamo così, che gli permette di sopravvivere. Sì. E questa è la cosa più anche, diciamo così, stupefacente, perché non ci si può certamente aspettare da queste persone un atteggiamento di rivolta o di lotta o di, no, militanza contro, per migliorare la propria situazione. È ripeto, mi sembra un film molto importante, ma comunque, dicevo, anche molto bello da vedere. Io poi non sono, diciamo così, per definizione schierato dalla parte di chi tratta argomenti, diciamo così, di attualità. Quello va bene, va benissimo, però non basta, insomma, poi ci vuole anche la scrittura, bisogna saperne parlare, bisogna saper arrivare a comunicare con gli spettatori a cui il film è rivolto, e secondo me Machines ci riesce. Poi insomma sarà il pubblico a dirci se è proprio così oppure no. Senti, in chiusura Enrico, ci lasci anche i riferimenti web per saperne di più sul documentario, sì, e sulla programmazione? Sì. Ma il solito www.cinetecamilano.it è il nostro sito madre, e da lì poi ci sono tutte le programmazioni delle nostre sale, fra cui appunto facilmente raggiungibili. È un sito che abbiamo rifatto da pochissimo, reso ancora più agile e ancora più chiaro, quindi più facile navigarci, con riferimento insomma è Spazio Oberdan. E da lì c'è tutta la programmazione, la scheda del film, le date e gli orari di programmazione, eccetera. Benissimo, allora un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, Enrico. A voi. Ciao. D'accordo, grazie a voi, salve. Enrico Nosei sul documentario Machines di Rahul Jain allo Spazio Cinema Spazio Oberdan a Milano, in programmazione dal 12 al 25 di ottobre. Eccoci con il regista Marco Bertozzi per parlare con lui del documentario Cinema a Grattacielo, il suo documentario. Lo ritroviamo questa volta con questo lavoro, sa che sarà in programmazione oggi qui a Roma all'Apollo 11. Marco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao, grazie per avermi chiamato. Allora, cos'è che indica questo titolo? Cos'è il Cinema a Grattacielo? È il cinema che quotidianamente ha luogo nel grattacielo di Rimini, che è una specie di macchina. Immaginati una piazza Vittorio in verticale, con 20 nazionalità diverse che lo abitano, dal sindaco al venditore di rose, e quindi un posto forte, interessante, anche perché venne edificato quando Rimini era diventata un po' la capitale europea della vacanza di massa, no? Era un po' il simbolo di questa metropoli balneare, e quindi era associato a frequentazioni così anche alto borghesi, super appartamenti, 6 ascensori sfrescianti, e invece adesso è un super rappresentante dell'Italia di questi anni, appunto, persone molto diverse che lo abitano in una convivenza anche a volte così curiosa, con degli aspetti surreali, insomma un grattacielo romagnolo, ecco, per farti capire. Senti, da dove nasce l'idea di questo documentario? Ma come sai sono di Rimini, quindi quando mancarono i miei presi un piccolo appartamento al 24° piano, e da allora iniziai a fare riprese un po' così, in traversata solitaria, diciamo, senza saper bene dove sarei poi arrivato, e man mano così che osservavo e che cercavo di raccontare un po' con la realtà. Il film si è, ha preso corpo finché negli ultimi due anni, anche grazie all'intervento di Ilaria Fraioli in montaggio e di Luca Ricciardi in produzione, siamo riusciti a dargli un corpo anche produttivo più forte e ad uscire, insomma. Senti, che lasso di tempo copre? Ma le prime riprese sono del 2005, quindi 12 anni, per cui è anche una tranche de vie in cui alla fine racconto anche il film stesso nel suo farsi. Per questo è anche un po' una riflessione sull'idea documentaria, sul fare proprio documentario oggi. È anche un film così che rischia qualcosa che va al di là del documentario d'osservazione. Il Grattacielo parla, ad esempio, parla con la voce di Armanno Cazzoni, lo scrittore, e quindi diventa una specie di dialogo fra un abitante e la sua casa, il grattacielo in cui lui vive. Ci sono parti in animazione, ho cercato di dar luogo anche a tutti, alle paure degli abitanti, agli immaginari, quindi che possa prendere fuoco, che possa essere sommerso, che in un terremoto possa crollare, insomma, perché abitare in un grattacielo è comunque una cosa particolare. Sì, sì, sì. Marco, cosa raccontano questi 12 anni? Allora, raccontano da un lato un cinema che è cambiato. Sì. Questo è l'aspetto che vedi anche attraverso la texture dei vari dispositivi. Ho usato delle mini DV, dei Super 8 e poi il digitale, quindi ci sono molti materiali d'archivio, per cui c'è questa cosa del passaggio del tempo, penso che venga un po' raccontata anche dai diversi formati anche. E invece, in termini più così di osservazione, raccontano il vivere e l'abitare in una realtà complessa e multietnica, che poi è osservato in maniera originale dall'altro corpo della città, no? Perché per i cittadini riminesi il grattacielo è rimasto qualcosa di un po' alieno, anche da cui diffidare, insomma. Ci sono leggende metropolitane molto forti e quindi abbiamo cercato di lavorare anche su queste, e forse in questi 10-12 anni alcune si sono rafforzate e altre invece sono svanite. Sì, è un film sugli immaginari e sull'abitare. Senti, che circuitazione sta avendo? Ma guarda, lo stiamo distribuendo un po' con le nostre forze, perché come sai, distribuire, avere un distributore per un documentario di questo tipo, magari fai qualche uscita, poi però forse non c'è la stessa passione che l'autore e il giovane produttore possono mettere nel distribuire la propria opera. Abbiamo già fatto tante proiezioni fra festival e sale e stiamo andando avanti così, abbiamo un calendario abbastanza fitto fino a dicembre e quindi continuiamo in questa distribuzione, almeno a livello nazionale. No, tra l'altro mi viene sempre più in mente, sarebbe bellissimo scrivere una specie di racconto di un filmmaker che va in giro per l'Italia in decine di sale diverse, raccontare l'esperienza che ogni volta trova in queste sale, nelle varie realtà locali. È qualcosa di molto forte, di molto bello e di molto interessante. E per l'estero invece stiamo ancora cercando un distributore. Senti, le reazioni dei riminesi? Ah, guarda, abbiamo fatto una proiezione a luglio, adesso il film esce in sala a Rimini per qualche giorno al Cinema Tiberio. C'era tantissima gente, molti sono rimasti fuori e diciamo che si dividono: chi è per un documentario tradizionale che ti racconta o il viaggio dell'eroe oppure insomma una serie di dati, magari resta un po' deluso; chi forse è così, lascia un po' andare a una visione un po' più aperta, se vuoi anche legata alla contemporaneità, al cinema contemporaneo, ma di solito mi sembra che lo apprezzi. Senti, ci lasci i riferimenti in rete per saperne di più? Certo, sì, ma c'è un sito che è www.cinemagrattacielo.com, c'è la pagina Facebook sempre su Cinema Grattacielo, quindi questi, insomma. Senti, la serata di oggi come sarà organizzata? Guarda, c'è Giacomo Ravesi, che è un curator delle iniziative alla Apollo, sì. Che lo presenterà, ma facciamo una breve presentazione, poi dopo ne parliamo al termine con Steve della casa, Ilaria Fraioli che è la puntatrice e Luca Ricciardi che è il produttore, quindi siamo lì pronti su vari versanti per dialogare col pubblico. Bene. Avevamo fatto un'altra proiezione a Roma, al San Marchino, quest'estate, e c'era stato un bellissimo dibattito dopo. Bene, bene. Allora, un abbraccio Marco e a risentirci presto. Bene, grazie, buon pomeriggio, prestissimo. Ciao. Ciao. Marco Bertozzi, regista del documentario Cinema Grattacielo all'Apollo 11 qui a Roma, oggi giovedì 5 ottobre. Alberto Lastrucci, direttore della 58esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 10 al 17 di ottobre. Alberto, una presenza fissa della nostra programmazione almeno una volta l'anno. Ben ritrovato. Grazie, grazie, saluti a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontaci un po' cosa ci offre quest'anno il Festival. Ho visto nella storia del festival, è la prima volta che siamo al mese di ottobre, perché il festival tradizionalmente si è sempre tenuto a cavallo tra novembre e dicembre, invece quest'anno ci siamo anticipati e quindi siamo curiosi di vedere quale sarà la risposta del pubblico in un periodo dell'anno dove normalmente non ci aspettano, ma noi siamo imprevedibili, almeno cerchiamo di esserlo. Il programma di quest'anno, come al solito, è ricco di film di diversa provenienza, sono 82 i film in programma nelle varie sale che ospita il Festival dei Popoli. Segnalo, perché è anche l'immagine a cui abbiamo dedicato la nostra copertina, il focus, un focus tematico che si intitola Effetto Domino e che racconterà sogni e incubi del potere contemporaneo, un modo per riflettere tutti insieme sull'importanza che le immagini hanno nella costruzione e nel consolidamento del potere, ovvero anche l'uso strumentale che il potere fa delle immagini per costruire un consenso. Senti, come sarà strutturato il festival? Come sempre ci saranno le due sezioni competitive, concorso internazionale che presenta 21 film inediti in Italia e il concorso italiano che presenterà 6 film di produzione italiana in anteprima assoluta. Senti, tutti i film nuovi che saranno tenuti a battesimo qui al Festival dei Popoli. Senti, quanti lavori e da quanti paesi più o meno? Sono arrivati circa 1400 film. Quindi l'estate l'abbiamo trascorsa in maniera molto, molto impegnata, ma è questo insomma quello che cerchiamo di fare, vedere tanti film per poi selezionare e scegliere quelli che a nostro modesto avviso riteniamo più interessanti per gli spettatori. Naturalmente sono rappresentati tutti i paesi del mondo, anche in maniera diciamo un po' simbolica, in quest'anno un gradito ritorno, quello del Giappone, a cui dedicheremo una retrospettiva con il focus dedicato al regista giapponese Kazuhiro Soda, per la prima volta in Italia e la prima retrospettiva in assoluto a lui dedicata. Soda è molto molto famoso in tutto il mondo grazie ai film che compongono la sua filmografia, appunto come dicevo inedito in Italia, quindi è un'occasione da non perdere anche per il pubblico italiano di conoscerlo, e i film di Soda raccontano il Giappone di oggi attraverso delle storie molto molto lineari, ecco, ma che ci permettano di entrare nei meandri della società giapponese, lontano anche un po' dai percorsi turistici. Stiamo parlando di un Giappone raccontato dai giapponesi, quindi la città moderna, le tradizioni, ci sono anche due film legati alle campagne elettorali che appunto ci permetteranno di capire come funziona il sistema politico in Giappone, e due film di grande interesse, molto raffinati, dedicati al teatro contemporaneo giapponese. Senti Alberto, alla luce di questa 58esima edizione, come si sta evolvendo il festival? Il festival sta semplicemente o complicatamente registrando cosa succede all'interno del linguaggio del documentario. Un cinema sempre più espanso, sempre più contaminato con gli altri generi, ormai non sono completamente tramontati i deliri che ci portavano a pensare che il documentario fosse la realtà. Il documentario è un racconto cinematografico che ha la realtà per protagonista, ma nel raccontarla e nel renderla interessante usa tutti gli strumenti, tutti i mezzi e tutti gli artifici della narrazione cinematografica, e questo è quanto permette poi ai registi attualmente di maggior richiamo di creare delle opere che sono assolutamente affascinanti, in grado di sbalordire per la propria bellezza e di emozionare molto, soprattutto per chi ha la possibilità di vederle sul grande schermo. Tra i vari argomenti dei tanti lavori presenti, quali sono quelli più frequentati? Quest'anno parleremo molto di spiritualità, uh-huh. Quindi non soltanto, ma anche le religioni più importanti, buddismo, islamismo e religione cristiana, ma anche proprio il legame dell'uomo con il proprio pianeta, con la propria spiritualità. Quindi ci saranno anche diversi cortometraggi molto molto appassionanti che ci mostrano il necessario legame che ciascuno di noi ha con l'invisibile, con le forze che ci permettono anche poi di trovare l'energia necessaria per affrontare le nostre giornate. Quindi questa ricognizione effettuata alle varie latitudini ci permette di vedere quanto diversi siano i rituali delle varie culture umane, ma come questi rituali siano presenti dappertutto. È anche un modo per richiamare le origini del nostro festival, che nasce nel 1959 come festival antropologico. Senti Alberto, quali sono gli orari e i luoghi del festival? Il festival si terrà al Cinema La Compagnia di Firenze, a Spazio Alfieri, alla Sala Cinematografica dell'Istituto Francese. L'orario è praticamente 24 ore al giorno. Si comincia la mattina con gli incontri che facciamo con tutti gli ospiti del festival, le proiezioni cominciano alle ore 15 per terminare intorno alla mezzanotte. Il programma è online sul nostro sito e quindi è opportuno che ognuno vada a fare le proprie scelte, perché ce n'è un po' per tutti i gusti. Alberto, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Vi aspettiamo a Firenze. Bene. Grazie. Ciao. Ciao. Alberto Lastrucci, direttore della 58esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 10 al 17 di questo mese. Abbiamo in collegamento Dagmar Toman e Benedetta Cappellini, montatrice e autrice del documentario CPT, Come ti parlo. Benvenute a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Allora, facciamo che vi alternerete nelle risposte, facciamo così con una sola linea telefonica, va bene? Sì. Allora, cominciamo con il descrivere il CPT, come ti parlo. Ce ne parlate un po'? Ma allora, diciamo che è un progetto che è nato dal volere soprattutto di due insegnanti che si vedono e appaiono anche come protagonisti all'interno del documentario, per diciamo poter raccontare anche all'esterno quello che è una realtà molto poco conosciuta della scuola per adulti in Italia. E diciamo, grazie al contatto e al fatto che uno di questi insegnanti conoscesse già il regista, che è Alessandro Diaco, si è partiti da lì dal lavoro di realizzare, di creare un'equipe di lavoro. Diciamo che in fondi erano molto pochi le persone che sono state avvicinate, che poi hanno formato l'equipe di lavoro, erano profondamente motivate nel volerlo realizzare, perché appunto le risorse erano poche e l'impegno e il tempo invece molto, e diciamo che era anche per creare un'alternativa, un momento per i ragazzi al di là della didattica classica. E diciamo che è stato un lavoro appunto lento, di avvicinamento di conoscenze, di ascolto tra quella che era un'equipe di professionisti del mondo dei video e dei documentari e una realtà appunto come la scuola per adulti, dove si incrociano e si incontrano diverse persone con bisogni, sogni e desideri diversi. Allora vi chiedo anche con quante persone avete interagito e quanto tempo ha richiesto tutto questo lavoro? Ma allora, diciamo che il gruppo di lavoro era fatto appunto dal regista, da me, da Dagmar, che è la montatrice, ci hanno in questo supportato un altro autore, altri due operatori di ripresa, professionisti, e diciamo che con i ragazzi, diciamo, la modalità è stata di un laboratorio ma non classico, nel senso che dopo aver dato il tempo per appunto la conoscenza reciproca, le persone che sono poi diventati protagonisti all'interno del documentario si sono avvicinati in modo individuale e spontaneo, visto che non c'era un'ora programmata di laboratorio, ma grazie appunto alla reciproca conoscenza ci si è dato il tempo di che avvenisse, ognuno di loro ha portato, esplicitato anche secondo le possibilità di ognuno quello che insomma un po' volevano portare come contributo alla realizzazione del video. Sì. E quanti erano appunto i protagonisti di questo racconto? Alla fine diciamo che è stato intorno a 10-7, dalle 7 alle 10 persone, okay, che hanno anche avuto, diciamo, la possibilità, perché insomma la vita precaria, flessibile, soprattutto nostra e di queste realtà, necessitano appunto di possibilità e volontà per realizzarsi. È stato in tutto un lavoro di un anno e mezzo. E un'altra curiosità è com'è la condizione oggi della scuola per adulti? Allora, ma diciamo che con la, come si racconta all'interno del documentario, adesso è cambiato il nome, che sono in CCTP e CPA, ma più o meno la realtà in cui si trovano, nel senso di marginalità e anche discriminazione di una scuola così particolare, è ancora oggi presente, se vogliamo. E insomma, le vostre impressioni anche mi incuriosisce sapere rispetto a quello che avete visto e a quello che avete ripreso. Ma ecco, diciamo che è stato sicuramente interessante conoscere questa realtà che è poco conosciuta, capire come funziona dall'interno e sicuramente poter incontrare quelli che sono i protagonisti e non del film, che magari sarebbe difficile poter incontrare in altri modi, diciamo, e poter insieme a loro, diciamo, creare anche una cosa profonda come appunto la costruzione di un documentario. E il rapporto con gli adulti che vengono da altri paesi? È stato sicuramente stimolante, interessante poter confrontarsi con loro sulle varie tematiche, quelle che loro portavano, dal più pratico al più profondo, e poter cercare insomma insieme di sviscerare in quelle che sono le differenze, le singolarità, le comunanze di ognuno. Il documentario che percorso sta facendo? Allora, adesso su questo rispondo io, diciamo, ho curato il montaggio, ma mi sto occupando anche di produzione, diciamo, e dell'organizzazione successiva. Sì. Film è uscito a gennaio 2016, quindi sono quasi ora 2 anni, non è recentissimo, diciamo, l'abbiamo presentato a vari festival. E ultimamente è stato selezionato al Via Emilia Doc Fest e insomma ora speriamo venga visto di più, abbiamo fatto qualche piccola proiezione, diciamo, in città, ma insomma per ora è ancora poco visto, comunque ci vuole è difficile sempre farsi prendere in considerazione anche nei vari festival, visto che comunque ci sono molti documentari prodotti anche molto validi, ed è difficile farsi vedere, ecco. Anzi, ringraziamo te che ci hai chiamato e che ci stai intervistando, e siamo felici di essere stati selezionati a quel festival. Giusto stamattina ho letto anche una bella recensione scritta su un sito, su Point Blank, e speriamo che finalmente possiamo far vedere di più questo film, ecco. E comunque il Via Emilia Doc Fest è in pieno svolgimento, quindi è visionabile proprio in questi giorni facilmente, insomma basta andare sul sito internet del festival Via Emilia Doc Fest. E ci lasci anche i riferimenti internet per saperne di più sul vostro lavoro? Sì, abbiamo una pagina Facebook che è chiamata CTP Come Ti Parlo, e poi abbiamo, diciamo, c'è qualche strato, il trailer presente su YouTube, basta digitare CTP Come Ti Parlo, e il film ora, appunto, grazie al festival, è visionabile in maniera integrale sul sito del festival Via Emilia Doc Fest. E basta, questi sono i riferimenti online. Sì, non siamo proprio molto attivi su questo lato. Bene, allora un saluto a Dagmar e Benedetta per il documentario CPT Come Ti Parlo, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, un ospite in diretta, così mi è arrivata un'email da Livia Parisi, che saluto se all'ascolto, che parla della prima edizione del NASRA, il Palestine Short Film Festival, che sarà alla Casa del Cinema di Roma. Ne parliamo con Stefano Casi, che ne è il direttore. Intanto, Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Allora, no, domenica 8, dal 6 all'8, da domenica è la giornata conclusiva. Allora, raccontaci un po' come nasce questa prima edizione e in cosa consiste. Sì, l'idea è quella di raccontare la Palestina attraverso il cinema. Il nome NASRA, che è appunto il nome del nostro festival, vuol dire sguardo in arabo. E quindi c'è l'idea di unire da una parte lo sguardo dei registi palestinesi e non, che sono cortometraggi da tutto il mondo, e lo sguardo degli spettatori, attraverso appunto una selezione di cortometraggi, sono 24, di tipo molto diverso l'uno dall'altro. In realtà sono diverse sezioni: documentari, le fiction, cortometraggi sperimentali, in particolare di animazione. C'è l'idea di appunto riuscire a raccontare aspetti della Palestina poco conosciuti, e appunto attraverso di essi raccontare della Palestina, cioè portare la Palestina come soggetto di rappresentazione, e quindi anche di realtà, e toglierla un po' dagli stereotipi e dalla disinformazione in cui è calata. E il cinema, in particolare attraverso lo strumento agile del cortometraggio, ci è sembrata la soluzione migliore, e devo dire anche con il senno di poi davvero la migliore, perché i cortometraggi sono bellissimi, molto, molto forti, emozionanti, anche divertenti, e quindi insomma questa è stata un po' la cosa che ci ha mosso e che ci ha portato fino a qui. Senti, sono tutti lavori degli ultimi due anni, immagino. Sì, sono tutti cortometraggi recentissimi, alcuni hanno davvero il loro debutto proprio in questa occasione. Tra il 2015 e il 2017 abbiamo lanciato un bando internazionale e ce ne sono arrivati tantissimi, e questa appunto è la selezione, e ci sono arrivati da tante parti del mondo, appunto, ripeto, non solo la Palestina ma anche da diversi paesi europei dall'America e dai paesi arabi e dall'Iran. Lavori comunque che ti arrivano da altri paesi in base proprio alla diaspora palestinese? Ma non necessariamente, perché l'idea è non solo appunto lo sguardo di registi palestinesi sulla Palestina, ma anche quello di altre nazionalità. Abbiamo davvero il confronto con come fare per raccontare o rappresentare appunto la Palestina anche da parte di altri. Abbiamo alcuni registi italiani, ma anche appunto dicevo americani, iraniani, anche palestinesi della diaspora naturalmente, ma l'idea era proprio quella di un festival assolutamente internazionale che consentisse proprio questi incroci di sguardo. Abbiamo anche registi israeliani che sì, ci raccontano appunto della Palestina. Ecco, che quadro emerge da tutti questi lavori? Emerge il quadro della Palestina, che non è particolarmente piacevole in questo momento, quindi chiaramente una parte piuttosto significativa viene da Gaza, o meglio ci racconta Gaza, in particolare proprio l'ultimo attacco del 2014. Vengono raccontate ovviamente le difficoltà di chi vive nei territori occupati, ma ci vengono anche raccontate piccole storie di speranza. Prima accennavo ai registi israeliani, c'è un cortometraggio credo importante e significativo anche perché racconta una storia poco conosciuta, che è quella di alcuni giovanissimi israeliani che fanno obiezione di coscienza perché protestano contro l'occupazione dell'esercito israeliano, l'occupazione dei territori palestinesi da parte dell'esercito israeliano. Ecco, quindi diciamo ovviamente si gira attorno al problema centrale della Palestina, che è appunto quello dell'occupazione, dell'apartheid, dei diritti negati, però ecco in alcuni momenti si riesce anche a farlo con una leggerezza che è davvero esemplare e ci fa godere anche proprio della parte più cinematografica in sé, diciamo così. Bene, allora ci lasci anche tutti i riferimenti web per la programmazione e poi un'ultima curiosità rispetto agli ospiti, se sono previsti anche gli autori. Sì, sono previsti gli autori, dunque il festival, ecco forse questa è una particolarità, una originalità di questo festival che ancora non ho detto, è che è itinerante. Il festival è partito da Venezia, dove sono stati proclamati i 5 vincitori nelle 5 diverse sezioni, ha attraversato Firenze, adesso appunto da domani è a Roma e proseguirà poi a Bologna, Napoli, per arrivare fino a Gaza, Gerusalemme e Ramallah. Quindi è proprio un festival itinerante in grande stile e a Roma avremo appunto i vincitori, i registi vincitori che appunto si potranno incontrare, che già venerdì saranno al liceo Tacito e alla scuola Gian Maria Volontè, poi sabato a Cinecittà e infine domenica appunto, che è l'appuntamento clou, quello aperto alla cittadinanza, cioè alla Casa del Cinema dalle 18, saranno presenti e lì sarà l'occasione appunto per vedere i corti, per incontrare i registi e poi per una serie di altre cose aggiunte, come una mostra fotografica, aperitivo e per finire con un omaggio a Jean Chamoun, che è il regista documentarista libanese, uno dei maestri del cinema libanese, che è scomparso 2 mesi fa e a cui appunto abbiamo deciso di dare un omaggio. Benissimo, allora Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo, ricordiamo l'appuntamento della prima edizione di Nasra Palestine Short Film Festival alla Casa del Cinema qui a Roma dal 6 all'8 ottobre. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi il lupo e venite numerosi naturalmente. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ed è tutto anche per Visionari.